642. Torta milanese. Per la stranezza della sua composizione, sono stato a lungo incerto se dovevo farvi conoscere questa torta, la quale non ha bastanti meriti per figurare in una tavola signorile e per piatto di famiglia è alquanto costoso. Non è peraltro da disprezzarsi, e siccome potrebbe anche piacere, come so che piace, a una famiglia di mia conoscenza, che la fa spesse volte, ve la descrivo. Carne tutta magra lessa o arrosto, di manzo o di vitella, netta da pelletiche o tenerume grammi 200. Cioccolata grammi 100, zucchero grammi 100, burro grammi 50, pinoli grammi 50, uva sultanina grammi 50, cedro candito a pezzettini grammi 25. La carne tritatela finissima con la lunetta, i pinoli tostateli, l'uva tenetela alquanto in molle nella marsala e levatela asciutta prima di usarla. Mettete la carne a soffriggere nel detto burro, rimestandola continuamente onde non si attacchi, e quando avrà preso un colore alquanto rossiccio, levatela dal fuoco per lasciarla ghiacciare. Sciogliete al fuoco la detta cioccolata, grattata o a pezzetti, in 3 cucchiaiate d'acqua, e sciolta che sia, uniteci lo zucchero e poi versatela nella carne, aggiungendovi i pinoli, l'uva e il candito e mescolando il tutto. Ora formate una pasta frolla per rinchiudervi la torta come appresso. Farina di grano grammi 170, farina di gran turco grammi 80, zucchero a velo grammi 80, burro grammi 70, lardo vergine grammi 25, un uovo, vino bianco o marsala quanto basta per poterla intridere. Prendete una teglia proporzionata, ove il composto non riesca più alto di un dito, ungetela col burro col lardo, e con una sfoglia sotto e un'altra sopra, quest'ultima, tirata col materello rigato, chiudetelo in mezzo. Dorate la superficie col rosso d'uovo, cuocetela al forno o al forno da campagna e servitela ghiacciata.